Incontri di Gianfranco Fabi. Con questo brano dei Police iniziamo l'incontro di oggi con Adriano Moreddo. Buongiorno Adriano. Buongiorno Moreddo. A lei. Adriano Moreddo, lo presenterò tra poco, però voglio subito chiedergli perché la scelta è capitata su questo brano così ritmico dei Police. Perché è una canzone dei primi anni 80 ed è la prima canzone di musica leggera di cui ho memoria, che mi appassionò sin da bambino. Perché... Quindi un manager ancora giovane. Adriano Moreddo è vicepresidente per le risorse umane di Whirlpool Europe. Sì. Con competenza anche sul Medio Oriente, mi sembra. Europa, Medio Oriente e Africa. Europa, Medio Oriente e Africa, e con sede a Comerio, vicino a Varese. Whirlpool Europe è uno dei più grandi, una delle più grandi società mondiali nel campo degli elettrodomestici. La più grande. La più grande, ecco, grazie della correzione, e ha acquisito da Philips quella che una volta era la Ignis, la sì. gloriosa Ignis di Giovanni Borghi. Sì. Però io partirei un po' da Adriano Moreddo, vedendo un po' qual è stata la sua esperienza. È arrivato dopo un'esperienza manageriale in altre imprese, quali per esempio? Sì, io ho lavorato per circa 7 anni in Pirelli, dove mi occupavo di risorse umane e di organizzazione. Ho lavorato per 5 anni in Italia nel quartiere generale della Bicocca, e poi per gli ultimi 2 anni della mia carriera in Pirelli ero in Inghilterra, dove avevo la responsabilità per le risorse umane di Pirelli Pneumatici. Quindi hai lavorato sempre nell'ambito delle risorse umane? Sì, sì, io ho una laurea in economia aziendale con una specializzazione in organizzazione e risorse umane, per cui diciamo sin da giovane ho preso questa malattia, gli aspetti sociali del business, che mi ha poi accompagnato in questi 15 anni ormai che mi occupo di questo tema. Il nome è di origine sarda, è sardo anche? I miei genitori sì, sono entrambi sardi, e io però sono nato a Milano, dove tuttora vivo. Quindi è cresciuto sempre tra Milano e Varese? Sono cresciuto tra Milano e Milano, e negli ultimi 4 anni invece mi sono trasferito professionalmente, perché tuttora vivo a Milano, però trasferito professionalmente nella meravigliosa provincia di Varese, e godo della vista del nostro quartiere generale, che a Comerio è una meravigliosa vista sul lago di Varese. Già Stendhal nel suo viaggio d'Italia diceva che era uno dei panorami più belli che avesse mai incontrato, scendendo da Varese verso il Lago Maggiore e guardando appunto il lago di Varese con lo sfondo del Monte Rosa. Ed è ancora abbastanza poco deturpato, se vogliamo dire, no? Per cui è sicuramente una zona industriale, ma ancora una vocazione turistica importante. E quindi a Comerio, proprio nel quartier generale, c'è la sede europea di questa grande impresa, diceva la più grande del mondo per gli elettrodomestici. Sì. Diciamo, diamo un po' la carta d'identità di questa Whirlpool. Allora, Whirlpool a livello globale è un gruppo che ha fatturato nel 2009 oltre 17 miliardi di dollari. I dati del 2010 verranno annunciati a breve, quindi ancora non si possono evidentemente condividere. E ha circa 70.000 dipendenti. Organizzata su 4 regioni, il Nord America, il Sud America, l'Europa, il Medio Oriente, Africa e l'Asia, che a loro volta fanno capo al nostro quartier generale mondiale, che è situato sulle rive del lago Michigan a Benton Harbor. Un po' diverso dal lago di Varese. Un po' più grande. Sì. Molto più grande, però diciamo che c'è questo fil rouge che unisce i due quartieri generali, quello globale e quello europeo. In Europa, appunto, il quartiere generale è a Comerio in provincia di Varese, in seguito all'acquisizione, come lei diceva prima, del business del bianco da Philips. E conta circa 12.000 dipendenti nella nostra regione, quindi Europa, Medio Oriente e Africa. In Italia quanti sono? Sono circa 4.000. Quindi c'è ancora una parte produttiva? Beh, c'è il quartier generale, c'è un centro di ricerca e sviluppo dall'altro lato del lago di Varese, a Cassinetta di Biandronno, un secondo più importante centro di ricerca e sviluppo mondiale per Whirlpool, che sviluppa prodotti sia per la nostra regione ma anche per le altre regioni. E poi ci sono 2 unità produttive sempre a Cassinetta, una a Trento, una a Siena e una a Napoli. Ecco, Whirlpool compie 100 anni, mi sembra. Whirlpool compie 100 anni, è stata fondata nel 1911 per l'appunto a Benton Harbor, sulle rive del lago Michigan, e abbiamo iniziato a novembre del 2010 un anno di celebrazioni che si concluderà l'11 novembre del 2011. 11-11-2011 e durante quest'anno tutte i vari siti della Whirlpool nel mondo celebreranno i 100 anni a modo loro, e anche rispecchiando la loro storia locale, perché noi siamo una somma di tante certo, realtà. Ecco, forse in questa prospettiva vale la pena ricordare che compirebbe 100 anni anche Giovanni Borghi, Cumenda, sì, che è fondatore della Ignis negli anni del dopoguerra e che ha portato appunto negli anni 50 e 60 ad essere una delle maggiori società italiane nel campo degli elettrodomestici. Poi Giovanni Borghi era presente anche in molti altri settori, lo si ricorda in gran parte anche come sponsor sportivo, certo, del ciclismo, del certo, calcio, certo, del pugilato. È un grande personaggio soprattutto nella realtà locale, ma anche nella realtà nazionale. Era in fondo uno dei protagonisti dell'imprenditore fai da te, dell'imprenditore che poi ha fatto, tanti imprenditori come Giovanni Borghi che hanno fatto grande l'Italia. C'è ancora un po' di spirito di Giovanni Borghi. Sì, sì, l'eredità della Ignis di Borghi ancora si respira sia come dire attraverso un busto che lo ricorda ancora nel nostro palazzo, ma sia, beh, diciamo che questa coincidenza del centenario della nascita di Borghi e dell'inizio delle celebrazioni per i nostri 100 anni ci ha permesso di unire un po' le due radici della nostra storia, e quello spirito imprenditoriale di quegli anni in realtà è quello che noi vogliamo ancora avere, no? Perché poi l'imprenditorialità consente la velocità e la presa di decisioni rapide. Insomma. Ecco, in questo senso la velocità, la rapidità, l'intuizione, la capacità creativa possono esserci anche in una multinazionale che si ha l'idea di essere qualcosa di un pachiderma, in fondo. Evidentemente rispetto alla realtà imprenditoriale noi abbiamo dei processi decisionali un po' più complessi, un po' di entropia generata, diciamo, dall'organizzazione. Noi abbiamo l'ambizione di voler essere più veloci e più rapidi nei nostri processi decisionali, lo siamo già, direi, a un buon livello, ma per il settore competitivo nel quale siamo non è mai abbastanza. Il nostro è un settore estremamente duro. Per è un settore in cui c'è una forte concorrenza. Fortissima concorrenza, molto competitivo, con margini di profitto bassi, tipici dell'ambiente industriale, e quindi la velocità è una delle caratteristiche che fanno la differenza, ovviamente insieme all'innovazione e alla qualità del certo. prodotto. Ed è un mercato soprattutto di sostituzione quello. È un mercato nella nostra regione, diciamo nella parte più occidentale della nostra regione, prevalentemente di sostituzione. E quindi, dato che fate dei prodotti buoni, sostituiscono in sempre più esatto. in tempi lunghi. Quindi andiamo a sostituire quelli dei nostri concorrenti. Ecco, questo è. Quindi la competizione qual è il punto di forza? Si dice che l'Italia difficilmente può fare competizione sul fattore del prezzo, riesce a fare competizione sul fattore innovazione? Sì, sul fattore dell'innovazione e sul fattore della qualità. Evidentemente la vocazione delle realtà produttive che nella nostra regione sono in Italia o in Germania o in Svezia non può che essere quella di produrre prodotti sempre più innovativi ad un livello di qualità sempre maggiore. Noi investiamo molto in innovazione, in qualità, abbiamo dei programmi, dei progetti, delle persone che sono dedicate a sviluppare l'innovazione all'interno dell'azienda, e mettiamo ovviamente una forte enfasi sul tema della qualità. Queste sono le due chiavi attraverso le quali si può competere dal punto di vista industriale in un paese ad alto costo del lavoro. Ecco, l'Italia appunto voi l'avete scelta come luogo dove creare innovazione. Lei è responsabile delle risorse umane, vuol dire che ci sono risorse umane capaci di fare innovazione. Noi abbiamo dei programmi di formazione dedicati allo sviluppo della competenza, noi la riteniamo una competenza critica per la nostra azienda, dell'innovazione. Abbiamo una formazione dedicata, abbiamo, come dicevo prima, delle persone che sono dedicate a sviluppare l'innovazione all'interno dell'azienda. Abbiamo una responsabile dell'innovazione a livello europeo che ha proprio la responsabilità di fare il project management di tutte le attività, da quelle, diciamo, più blue sky, come si suol dire, quindi più estreme in termini di innovazione, a invece innovazioni, diciamo, più di continuous improvement sul prodotto. Adesso la linea di tendenza dell'innovazione, soprattutto negli elettrodomestici, è soprattutto quella del risparmio energetico, sì. della salvaguardia dell'ambiente. Si può fare ancora molto su questo fronte? Si deve fare molto. Il nostro modello di business è estremamente legato al tema della sostenibilità. Lo era anche quando il tema non era tanto di moda, no? Perché le classi energetiche, come ricordava lei, sono state un elemento che ha forzato l'industria a essere appunto sostenibile nell'innovazione. Il consumatore è sempre più attento a questi temi, e quindi differenziarsi dal punto di vista dell'energy saving, ma anche della produzione ecosostenibile, viene percepita dal consumatore come un elemento differenziante. Ma su questo tipo di prodotti esiste una differenza tra il consumatore tedesco, quello italiano, quello francese? Beh, le classi energetiche sono a livello europeo, certo. per cui non c'è una grossa differenza. Diciamo che i consumatori dell'est, della parte occidentale, dell'Europa occidentale, sono più sensibili di quelli magari dell'est europeo, però c'è una tendenza che più o meno simile in tutto il mondo, vorrei dire. Ormai il mondo si sta globalizzando anche dal punto di vista delle tendenze appunto di consumo e di scelta. Incontri. Ecco, ancora con questo brano dei Police riprendiamo il nostro dialogo, il nostro colloquio con Adriano Mureddu, vicepresidente per le risorse umane di Whirlpool Europe. Whirlpool, abbiamo detto, la più grande azienda mondiale nel campo degli elettrodomestici, presente appunto in tutto il mondo e per l'Europa e il Medio Oriente, ha la sua base logistica, la sua base operativa a Comerio, vicino a Varese. Allora, Adriano Mureddu, ma da piccolo cosa avrebbe voluto fare da grande? Sa che non me lo ricordo. L'aviatore, il giornalista. Sì, probabilmente l'aviatore, perché mio papà era un aviatore, per cui probabilmente era quella la mia ambizione. Poi l'ho riportata verso temi più terreni, diciamo. E poi per diventare responsabile delle risorse umane che carriera bisogna fare? Ma io ho studiato economia, mi sono iscritto a economia da 19enne senza avere una chiara idea di quello che volevo fare. Poi al secondo anno di studi ho seguito un corso che mi piacque molto, di organizzazione a risorse umane, per l'appunto, e questo mi fece capire che in realtà quello che mi interessava più degli aspetti economici era la parte più sociale, quindi il comportamento delle persone, dei gruppi di lavoro e delle organizzazioni come fattore di implementazione delle strategie aziendali. E quindi ho deciso che quella doveva essere la mia strada e la mia carriera, ed è un percorso che consiglio di fare a chi avesse questo tipo di passione, perché comunque il background economico è molto utile anche per chi si occupa di risorse umane, per mettere in collegamento, certo, i numeri con le necessità delle competenze. In fondo parlare di persone, parlare di uomini, di risorse umane è un po' un dare un'umanità, un'economia che rischia invece di essere fatta di numeri, di grandezze, di quantità, di soldi, solo di valori che sono al di fuori. Invece il vero valore delle imprese è ancora quello delle persone. Beh sì, ma poi con questa affermazione sfonda una porta aperta. Io ne sono un assoluto un convinto. Ne sono estremamente convinto e voglio dire, è anche quello di cui mi occupo tutti i giorni con passione, per cui sono assolutamente d'accordo. Le persone fanno la differenza, e avere le persone migliori e avere la cultura organizzativa che permette alle persone di esprimersi al loro meglio poi fa la differenza sui risultati di business. Ecco, come fare a motivare le persone in una grande realtà come quella di una multinazionale, in cui sembra che ci debba essere un po' il culto della funzione, della mansione, della procedura, per cui ognuno deve fare le sue cose? Come si fa a sentirsi partecipe di un grande progetto, ad essere motivato a partecipare e ad avere appunto dei valori di fondo di crescita e di logica appunto di impresa complessiva? Ma noi mettiamo molta enfasi nella comunicazione interna, investiamo molto in termini di comunicazione interna, sia tradizionale con meeting nei vari siti dove siamo presenti, in particolare a Comerio dove abbiamo l'headquarter, nel nostro auditorium abbiamo incontri periodici con tutti i dipendenti del sito, dove il nostro presidente e poi i suoi principali collaboratori raccontano come sta andando il business, sia nel bene sia anche negli aspetti più critici che richiedono magari le decisioni più difficili. E in generale tendiamo a tenere il più connessi possibile le persone con l'andamento del business. In questi ultimi anni, dove la recessione ha comportato anche delle scelte difficili, anche delle ristrutturazioni abbastanza dolorose evidentemente, questo canale di collegamento, questa comunicazione l'abbiamo ancora di più intensificata per rendere tutti partecipi di quelle alle sfide che tutti insieme, come Whirlpool EMEA in questo caso, avevamo di fronte. Ecco, c'è una logica americana, in una multinazionale americana, che viene portata a livello di gestione in Italia, oppure anche c'è un certo modo di fare italiano può avere il sopravvento? Ma più che italiano io direi europeo. Noi nel nostro quartier generale abbiamo persone di 21 nazionalità differenti, la nostra lingua di lavoro è l'inglese e quindi sicuramente abbiamo una cultura di matrice americana, ma interpretata in un melting pot europeo che ci fa, da questo punto di vista, forse un unicum anche sul territorio nazionale. E quindi più che la cultura americana, da noi si respira molto l'essere parte di un continente, no? E lo stile nostro è un po' la sintesi di vari modi, di varie culture di operare, quella americana e quella europea. Beh, potete essere in un'area in cui c'è per tradizione una presenza europea, il centro di ricerche di ISPRA, assolutamente. C'è una scuola europea a Varese, quindi c'è anche una situazione logistica che favorisce questa unificazione. Voi siete una rappresentazione della globalità da una parte, dell'essere un'impresa mondiale, ma ecco, come mantenere però una identità italiana che comunque resta fondamentale per motivare le persone? Beh, l'identità italiana è legata alla nostra presenza su quel territorio e all'eredità di cui parlavamo prima, della storia di Giovanni Borghi, di Ignis e dell'indotto anche, quindi delle tante aziende che attraverso Ignis prima, Philips e poi Whirlpool hanno sviluppato il loro business e hanno dato lavoro a tante persone della zona, quindi è sicuramente un punto d'orgoglio per noi essere presenti in quel territorio. Come mantenere l'identità vuol dire essere però interpreti anche di un mondo che sta cambiando, di un'Europa che per noi è il mercato domestico, e quindi essere capaci di interpretare la nostra italianità in una chiave più ampia. E gli americani come vedono questo nostro paese? Bene, sono estremamente affascinati dal punto di vista culturale e della qualità della vita, sicuramente. Tanti americani hanno vissuto, colleghi che adesso sono tornati negli Stati Uniti o che vivono in altre regioni, hanno vissuto a Comerio o negli altri siti dove siamo presenti in Italia, e tutti portano un ricordo molto bello, insomma, molto appassionato della qualità della vita che hanno potuto avere, e anche del lavorare duro, perché poi siamo rispettati anche come persone che sanno lavorare duramente e sono estremamente determinati nel raggiungere i propri risultati. Ecco, quindi in questa prospettiva, cosa vede nel futuro di un'impresa come la Whirlpool? Come vede la Whirlpool e l'Italia tra 5 o 10 anni? Beh, io vedo un'azienda toccando ferro di successo che ha saputo svilupparsi oltre la dimensione attuale e ha saputo svilupparsi nei mercati dove ci sono le più importanti opportunità di crescita, e ha saputo attraverso questo sviluppo continuare a dare lavoro, formazione e sviluppo professionale a tante persone in Italia, in Europa e se vuole in tutto il mondo, e che ha ancora di più rinforzato la propria immagine come azienda dove i giovani vogliono andare a lavorare perché sanno che possono avere di fronte a loro un percorso di sviluppo e un percorso di formazione difficilmente riscontrabile in altre realtà. Cosa dice un giovane che entra in azienda? Di essere imprenditore di se stesso, dico di non aspettare che l'azienda si preoccupi dello sviluppo suo, ma che si preoccupi soprattutto lui stesso di sviluppare il proprio talento e di capire quali sono le opportunità e qual è anche la propria strada. È chiaro che l'azienda ha il dovere e la volontà di mettere a disposizione strumenti, ma se uno non è imprenditore di se stesso e aspetta semplicemente, difficilmente potrà raggiungere le proprie ambizioni, i propri sogni. E che cosa vede quando deve assumere un giovane come qualità essenziale? Beh, le dicevo prima, un atteggiamento sicuramente imprenditoriale, e poi per quanto ci riguarda l'aver avuto voglia di misurarsi in esperienze internazionali, quindi o nel corso degli studi o perché si è fatto uno stage, l'aver avuto voglia di staccarsi da casa, andare a vivere da un'altra parte del mondo, mettersi in gioco e poi essere tornato magari cresciuto con un bagaglio professionale e personale molto, molto arricchito. Ecco, in questa prospettiva voi assumete dei giovani? Noi assumiamo giovani in vari modi, sia perché abbiamo necessità di coprire dei ruoli o nuovi o che si sono liberati, ma anche abbiamo dei progetti che noi chiamiamo di proactive intake, cioè progetti attraverso il quale andiamo a cercare persone di valore indipendentemente dal fatto che abbiamo un lavoro da offrirgli o no. Andiamo a cercare il talento e poi dopo ci occupiamo di trovare il lavoro per loro, il progetto per loro, per poterli attrarre. Per cui siamo estremamente attenti all'assunzione del massimo numero possibile di persone di talento. Quindi vuol dire avere fiducia nel futuro, avere fiducia nelle possibilità di crescita, avere fiducia che ci possa essere sempre una soluzione più avanzata per i problemi. Avere appunto uno spirito, come dicevo prima, imprenditoriale. Guardare avanti con fiducia, non essere vittimisti, non lamentarsi. Ogni azienda ha i suoi aspetti positivi e quelli negativi. Se uno si focalizza semplicemente sui piccoli problemi che tutti i giorni possiamo avere, trova sempre un motivo di lamentarsi. però chi guarda però oltre. Magari una battuta su una lamentazione lo bisogna farlo, non si può essere tutto ottimista. C'è qualcosa che non funziona in questa Italia, il traffico, i trasporti? Ma assolutamente, ce ne sono tantissimi. Io poi che sono un pendolare sul traffico e sui trasporti potrei aprire un cahier de doléances. Indubbiamente sì, non è una delle strade più tranquille. No, e anche poi tutta la strada lacuale che porta a Comerio non è insomma, è molto trafficata. L'Italia, i limiti strutturali dell'Italia li sappiamo, li conosciamo, no? È la difficoltà di fare sistema, la difficoltà appunto di investire nelle infrastrutture, la difficoltà di generare quelle condizioni per cui l'azienda, una parte della competitività se la trovano grazie agli investimenti strutturali fatti dallo Stato. Noi dobbiamo compensare e quindi dobbiamo essere un po' più imprenditori, un po' più veloci forse dei nostri cugini. E abbiamo cugini, molta capacità di adattamento però come sì, italiani. Però è un po' pericoloso perché poi ci si adatta anche a condizioni magari non ottimali e si finisce per cronicizzare quelli che sono i nostri problemi strutturali. Qual è il suo obiettivo a 2 o 3 anni? Quale preda vorrebbe portare a casa? Ma dal punto di vista professionale vorrei continuare a fare il meglio possibile il mio lavoro per i prossimi 2 o 3 anni, che faccio da 1 anno e mezzo, quindi da relativamente poco, e mi piacerebbe veramente contribuire a innalzare la motivazione e la soddisfazione dei nostri dipendenti. Noi facciamo delle survey annuali su quella lo chiamiamo l'engagement, quindi la motivazione e la soddisfazione dei nostri dipendenti. Mi piacerebbe portare questo valore a quello delle migliori aziende a livello mondiale. E se per fare carriera le chiedessero di andare a lavorare sul lago Michigan? Bah, sono già stato all'estero una volta, ci lo valuterei, e il lago Michigan è molto bello, è come un grosso lago di Varese. E allora auguri, perché si realizzano i sogni e le possibilità. Se può stare a Varese tanto bene, se può fare carriera altrove anche in America ancora meglio, perché anche l'Italia deve portare un po' di ambasciatori del proprio essere italiani. Benissimo, la ringrazio molto. Grazie mille, molto. Grazie ad Adriano Murendo, vicepresidente per le risorse umane di Whirlpool, che ci ha fatto compagnia in questa domenica pomeriggio, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Anita Panizza in redazione. E ricordo a quanti ci hanno ascoltato e quanti vogliono ascoltarci che potete risentire questo programma, come tutti i programmi di Radio 24, dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.